Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a questa quarta puntata dello speciale Smart City della serie Il Futuro, e oggi dedicata all'intelligenza artificiale. Abbiamo cercato di spiegare nelle puntate precedenti che cosa si intenda per intelligenza artificiale. Abbiamo spiegato che esistono diversi tipi di intelligenza artificiale, che stiamo cercando di ricostruire le varie manifestazioni dell'intelligenza artificiale una alla volta. E un po' tutto questo messo insieme confluisce dentro l'oggetto di cui vogliamo parlare oggi, che è il robot umanoide. E per parlarci del robot umanoide non poteva che esserci come nostro ospite Giorgio Metta, che è già stato nostro ospite nella prima puntata, direttore dell'iCube Facility dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dove guida lo sviluppo del robot umanoide italiano in assoluto più famoso, iCube. Benvenuto, bentornato, anzi Metta. Grazie. Allora, senta, io le faccio una domanda che, come dire, alla fine è quella che un po' mi tormenta anche, ma perché alla fine un robot umanoide? Quali sono le ragioni di fare un robot con delle sembianze umane? Non è che la forma umana abbia qualcosa di speciale, no? È un frutto di un'evoluzione che è andata in un certo modo, ma poteva anche andare in un altro. Certo, certo. E gli ingegneri potrebbero anche fare diversamente. Certo. Quindi, sì, è una domanda importante. Noi abbiamo diverse ragioni che vanno da quelle più scientifiche a quelle forse più banali, quelle ovvie. Un robot umanoide messo in un ambiente che è stato progettato per l'essere umano ha maggiori capacità di movimento, di riutilizzare quello che l'ambiente offre, per cui di utilizzare anche tutti gli strumenti che sono stati sviluppati per l'essere umano. Banalmente negli edifici le dice ci sono le scale, quindi un robot con le ruote ha seri problemi con le scale, no? Esattamente, sì. Ma anche premere gli interruttori per accedere alla luce piuttosto che ci vuole un dito, lei dice, per fare un lavoro. Sono tutte cose che sono ormai state progettate per l'essere umano. Se noi un giorno vorremmo avere, o ci immaginiamo di avere, questi robot tra di noi, per forza di cose è bene che si adattino al nostro ambiente. Certo. Questo è un primo aspetto. Esiste un aspetto che riguarda l'interazione con noi, con esseri umani. È stato dimostrato anche con tutta una serie di esperimenti di interazione uomo-macchina che la forma umana ha dei vantaggi. Ha dei vantaggi per noi che poi lo dobbiamo osservare, con cui dobbiamo interagire, per cui il movimento, soprattutto simile a quello dell'uomo, ci mette a nostro agio. Quindi per noi, esempio, ci consente di intuire che cosa sta per succedere, no? Noi per esempio, esatto, quando stiamo ad un incrocio, se siamo in dubbio, no, se passare o non passare, magari guardiamo dentro l'automobile e cerchiamo di guardare se il guidatore dall'altra parte sta guardando verso di noi o è distratto, no? Per esempio. Esattamente, che è quello che non fa l'auto senza guidatore. Esatto, è uno dei potenziali problemi. Ho toccato un tasto dolente, lo so. Assolutamente. quindi la forma umana garantisce che io possa avere della comunicazione, se vogliamo, implicita con la persona con cui interagisce. Naturale, naturale. E quindi lo sguardo del robot comunica qualcosa, il modo in cui il robot si muove, la velocità in cui si muove, se tutti questi parametri sono più vicini all'uomo, noi stiamo meglio. Ecco, vale la pena ricordare che il grande successo dell'informatica, degli strumenti informatici, è stato, diciamo, proporzionale a quanto più facile diventava e spontaneo e naturale l'utilizzo degli strumenti informatici, no? Pensiamo, il touchscreen un bambino lo utilizza istintivamente, mentre il DOS non sarebbe riuscito a usarlo istintivamente. Chiaramente, no? Chiaramente. Il successo dei robot dipende un po' anche da questo. Potrebbe dipendere da questi fattori e soprattutto una comodità d'uso, per cui se il robot è utile è anche facile da usare alla fine. Non chiediamo a tutti di essere dei programmatori. Infatti. Esiste poi un'ulteriore ragione che forse è più a cavallo tra la filosofia e la scienza, che dice che è possibile sviluppare un'intelligenza umana solo su un corpo che ha una forma umanoide. Questo ovviamente bisogna vedere cosa vuol dire un corpo con forma umanoide, ma tipicamente con delle mani per prendere e manipolare l'ambiente, e quindi la possibilità di vedere l'ambiente e di in qualche modo manipolarlo fisicamente. Comunque, mi corregga se sbaglio, l'intelligenza è sempre un fatto di relazione con l'ambiente. Non si può immaginare un'intelligenza chiusa su se stessa, o almeno non l'intelligenza che possiamo immaginare noi, essendo degli esseri viventi che appunto interagiscono. Queste che erano, se vogliamo, solo teorie poi sono cominciate a essere in qualche modo supportate anche dai risultati della neuroscienza, per cui si è cominciato a trovare nel cervello aree dove c'erano neuroni che rispondevano, non so, alla vista, contemporaneamente al tatto, contemporaneamente al movimento. Quindi in qualche modo movimento e quindi la forma del nostro corpo e quello che vediamo sono due quantità che vanno insieme. Quindi corpo e sensi a disposizione determinano il tipo di intelligenza, quindi forse un polpo difficilmente potrebbe, no? Un robot polpo difficilmente potrebbe sviluppare un robot con un grande olfatto, esatto, un'intelligenza umana. Questo avrebbe difficoltà a capire cosa vuol dire manipolare qualcosa con cinque dita. Ecco, per esempio, tanto. Certo. Come quindi, noi facciamo fatica a immaginarci con delle tentacoli. Esatto, al posto delle mani. Quindi questi sono tutti aspetti che poi determinano in qualche modo l'idea di sviluppare un robot umanoide. Alcuni sono più pratici, alcuni se vogliamo un po' più forse ancora da dimostrare, però alla fine si converge un pochino su questa soluzione umanoide. Però ecco, è ben noto che nel cercare di fare un robot umanoide non bisogna superare un certo limite, se no si cade dentro quella che viene chiamata Uncanny Valley. Che cos'è e dove sta questo limite? Beh, dove stia è un po' complicato. State cercando di capirlo, no? Capirlo, sì. In realtà si è visto che il modo in cui io percepisco un robot, fin tanto che diventa più umano, va bene. Quando supera un limite per cui in qualche modo ha anche le fattezze, proprio l'aspetto esteriore di un essere umano, comincia un pochino a disturbarci, soprattutto perché il robot alla fine è molto umano, quindi io mi aspetto che faccia anche certo. Le cose come un essere umano, ma poi alla fine non le fa, quindi non si muove in realtà come un essere umano, si muove in maniera molto diversa. È un effetto questo zombie, possiamo definirlo così? Questo sì, è un carnevale. Zombie, di fatto è l'effetto zombie, e per cui avvicinarsi troppo in questo momento è un po' difficile dal punto di vista poi percettivo, o mette a disagio chi osserva il robot. Questo non vuol dire che un giorno si potrà riprodurre talmente bene i movimenti che anche questa Uncanny Valley. Quindi lei pensa che sia più una questione, non è una paura atavica di non riconoscere il robot dall'essere umano o qualcosa del genere? Il fatto di aspettarsi per esempio un comportamento irrazionale da una macchina è qualcosa che terrorizza le persone. Lei dice è proprio quasi una reazione chimica, lei dice, basta farli muovere bene e il problema si risolve. Io direi che molto va in questa direzione, quindi nel modo in cui l'aspetto e il movimento vanno d'accordo. Coincidono, diciamo, il comportamento e l'aspetto, diciamo. Sì, sì. Per cui, siccome almeno dal mio punto di vista, al momento non riusciamo a realizzare dei movimenti neanche lontanamente come quelli umani, meglio sottolineare le differenze, fare un robot che si veda che è un robot. E cercare ovviamente di migliorare tutto quello che è l'aspetto del movimento del robot, del comportamento, perché questo, diciamo, ha dei vantaggi pratici, il robot fa delle cose utili e allo stesso tempo dà anche un'impressione o comunque risulta più piacevole interagire con una macchina di questo tipo. Va bene, grazie Giorgio Metta per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie ancora. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, parleremo della morale dei robot. Buona serata.